Signore e signori, le pillole del divertentismo di Sandrino, Nadia e Nicola. Eccoci qui a concludere un altro sabato sera, un'altra bella serata divertente qui al convento di Ronato, e come da tradizione non c'è modo migliore di chiuderla se non con le nostre pillole, con il nostro riassunto, insomma il bignami, chiamiamolo così, il bignami della serata. Abbiamo con noi ovviamente Nadia, la mia sinistra, biondissima. Eccomi qua. E Osho, perché fino a due secondi fa stava riflettendo a occhi chiusi. Sul senso della vita. Esatto, senso della vita, il nostro filosofo, Mr. Dave. Un felice e festoso saluto il, a tutti. Il brizzolato, Mr. Dave. Allora, ovviamente il nostro saluto si estende come sempre a Sandrino, a Stefanuccio ancora impegnato ovunque lui sia, a Stefanuccio impegnato in area YouTube, ai nostri DJ Carlone e Alex Angioletti in console, tra l'altro anche DJ Gale, non dimentichiamo. Sì, beh, chiaramente, infatti dicevo DJ Gale che ha aperto le danze. No, dicevo che abbiamo insomma chiacchierato con Alex e DJ Carlone prima di cominciare la serata, e notavamo che forse la prima volta nel 2019 in cui finalmente si ritrovano insieme, perché insomma si sa che poi ci sono altre sì, insomma, altre serate, altri incroci e così via. Ma perché sai che la vita del DJ è indaffarata. Incrocio pericoloso. La vita del DJ è piena di incastri strada da far coincidere. Strucciolevole. Esatto. E finalmente stasera si sono riuniti. Erano, sai, come quando i due amici che non si vedono da qualche mese, da qualche tempo. Baci, abbracci. Sì, erano tutti felici. Chissà, io immagino i dialoghi fra DJ quando sono fatti. Pesante. Ma tu il cavo Aux, perché lo metti? Sì, sono. Hai visto la classifica di quelle cose? Sono di cui noi neanche super specifici, esatto, super specifici. Il cavo Aux. Cavo Aux. Cavo... Io lo metterebbe, lo metterebbe. Sì. Tra l'altro. Dov'è che lo metterebbe, Steve? No, tra l'altro non per fare, come dire, lodare, ma perché mi piaceva sottolinearlo. Ausgang. No, Eingang. Ausgang, Eingang. Bravo, Mr. Dave. Conosci la differenza? Bravo. Wow. Bravo, come si dice quando una cosa è bi... Ein, zwei, Polizei, drei. No, quello no. No, dicevo... l'ho mimato bene. Sì, assolutamente. Meno male che non siamo in video. No, non ci vede nessuno. Mi confermi che non siamo in video? No, assolutamente no, te lo confermo. Adesso così siamo lì. Siamo liberi di dare il meglio di noi. Esatto. No, dicevo, allora, non per tessere lodi, però comunque due super uomini, perché da una parte c'è il nostro DJ Carlone, che finita la serata, sono le 3:30 del mattino, domattina va a fare un allenamento per una maratona. E quindi strano già... che non va a fare una maratona. Allenamento domani. E il nostro Alex Angioletti, che facendo anche il turnista, può essere che cominci il suo turno di lavoro o l'abbia appena finito. Quindi comunque veramente due macchine da guerra, e nonostante questo continuano a far ballare con l'energia e il divertimento che da sempre li contraddistingue. Senza Bene. Parlare dei nostri super capi che fanno le 4 del mattino da 25 anni 29 senza battere un colpo, senza quindi battere 1990 colpo. O 1995? No, 90, 90. 1990. Però io, ragazzi, vorrei cogliere questi 5 minuti per contribuire a diffondere un messaggio che stiamo cercando di diffondere in tutti i modi, perché Mr. Dave ha fatto un guaio. No, non è stato colpa di Mr. Dave, anzi, abbiamo fatto uno scherzo, abbiamo fatto un pesce da prendere. Sempre colpa di me. Qualcuno deve prendersi la sua responsabilità. Il cos'è? Capro espiatorio. Esatto. Che tra l'altro io più che capro, caprone. No, ma tra l'altro io ho scoperto. Senti? No, tranquillo. Dicevo, io ho scoperto 6 mesi fa che era capro espiatorio, cioè sono cresciuto col capo espiatorio. Ma veramente? E non sai neanche perché si chiama così, no, allora. Mi ha sconvolto la vita. Risale alla tradizione ebraica in cui veniva ucciso un capro per estirpare. Ah, perché il maschio della capra è il capro? Sì. Non è. È il caprone. Ah, beh, sì. No, adesso mi viene il dubbio. Adesso mi viene il dubbio anche me. Maschio della capra. Nadia, prendiamole perché giriamo. Scusa, abbiamo questa cosa favolosissima che si chiama internet. No, allora aspetta, pecora montone. Giusto, no? Ma perché stiamo... Era un capro utilizzato anticamente durante i riti in cui gli ebrei chiedevano il perdono dei propri peccati. I due Mamma leocorni, mia, ma chi sono? Ma chi I sono? Due leocorni, ma non manca sono? Più nessuno. Non manca più nessuno. Manca Però più nessuno. Ragazzi, torniamo a noi. Quello che dobbiamo diffondere in tutti i modi, con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, è che il 17 di aprile si farà una bellissima serata al convento, una serata che però richiede che voi veniate vestiti. Perché abbiamo avuto la brillante idea di fare un super scherzone che è andato oltre ogni si è un po' ritorto, ecco, esatto, ha un po' avuto un effetto boomerang. No, diciamo che sta andando. No, più che non ha avuto un effetto boomerang. Cioè, ha avuto un successone. No, nel senso, effetto boomerang che si è dovuto smentire più e più volte, in quel senso. Esatto. Quel senso. Cioè, e quindi smentiamolo anche qua adesso per chi ci sta ascoltando. Chi ha telefonato? Tantissima gente, anche fra la cui polizia. L'ASL, la polizia, il presidente di un'associazione nudista, chi si è candidato per venire a lavorare qua. Perché cioè, abbiamo sono state infinite, non potete neanche più tracciarle, ragazzi. Abbiamo fatto un video fake, una fake news tratta da un telegiornale che si lanciava questa nuova... iniziativa, certo. Prima volta in Italia la Naked Dinner. Anche questo era falso, fra l'altro, non ne sarebbe neanche stata la prima volta in Italia. Sì. Però insomma, quindi ragazzi, mi raccomando. Però hanno telefonato in tanti. Meno male. Cioè, senso, meno ci male che potrebbe pensare a questo punto. Per rivelare anche un'ultima news, anche un locale non di concorrenza, però diciamo un noto competitor da anni ha proposto di fare una collaborazione con noi, noleggiando un capannone esterno per poterlo realizzare, e non sto scherzando, poi Ivana me lo spiegherà. Però, cui insomma la cosa sta suscitando un poco clamore, e quindi ancora una volta ci teniamo a precisare che era uno scherzo. Mi raccomando, fermate l'invasione dei nudisti. Aiutateci a fermare l'invasione dei nudisti. Sì, che poi tra l'altro, ridendo e scherzando, parlando proprio per Massimi Sistemi, sembra una nicchia di popolazione, ma in realtà ce ne sono, e ce ne è sono che tanti. Nel loro privato lo sono, capito? Quindi no, ce ne sono tanti. Certo, ma io non vi nego che non c'è una così, al di là del fatto che era una fake news, eccetera. Però ha il suo fascino, innegabile questo. Assolutamente sì. Comunque sì, è un bel esporsi. È un mettersi a nudo. In varie forme. Sì. In varie forme e in vari sensi. In vari detto sensi, questo, quindi. Io ho detto tutto e direi che da parte mia l'udienza è tolta. Ah, così. No, ma scherzo, ovviamente. No, chiudi. Però ci tenevo a sottolineare questo. Che ci sta un chiarimento. Approfittiamo anche della data, della ricorrenza, cioè ricorrenza, non c'è ricorrenza, però insomma siamo vicino alle festività pasquali, per ricordare che come sempre quando vedete un numerino rosso sul calendario che per voi significa ferie e vacanze, non lo è per noi, perché anche ad esempio per il pranzo di Pasqua e il lunedì di Pasquetta saremo operativi, oltre che chiaramente il weekend come il nostro solito, però potete trovarci anche in quelle occasioni. Se vi state chiedendo, ma al convento chiude Pasqua? No. Anche il 25 aprile, assolutamente sì. E anche il 1 maggio. Con cosa volete dirci, svelarci un po'? Con cosa volete svelarci un po'? Che appuntamenti sono in programma, sì, per quelle festività? Per farlo semplice, per farlo ricordare a tutti, i giorni rossi sul calendario, quindi quelli proprio di festa, e sono trattati come se fosse delle domeniche, per cui c'è l'apertura sia a pranzo che poi la sera la pericena dalle 19 alle 24, con gli stessi costi della domenica italiana. Per cui 7 euro la donna, 13 euro l'uomo, prima consumazione compresa, libero accesso a tutti i buffet. Quindi così ve lo ricordate tutti. Poi invece i pre-festivi ci sono a seconda della data, programmi diversi con costi diversi, che potete tutti trovare sul sito convento.it, sapientemente gestito da Mr. Dave. Io stavo notando che c'è il flipper che sta facendo... Ma da dove è arrivato tra l'altro questo flipper? No, è un flipper tra l'altro elettromeccanico, ancora dei primi. No, perché cioè, non c'è niente di elettronico. Infatti ho detto, sono arrivato stasera, mi sono visto questo flipper. Vabbè che sono abituato. C'è ancora la monetina 100 lire, quello andava a 100 lire e ti dava 5 palline. Dicevo, sono abituato alle novità e a aspettarmi di tutto qui dentro. Però ho visto questo flipper. È bellissimo. Quindi ha fatto scalpore e ha suscitato interesse. Sì, è bellissimo. Ho fatto 3 partite, record. Ma anche perché lì. A me piacevano quando c'erano i rimbalzanti, quelli perché in alto. Ma ricordi, scusa. Certo, no, io ho giocato. Dai. Sì. Guarda, ci sono ancora, Nadia. Ma dove? Sì. Beh, poco, ma ci quello, sono. Quello che rimpiango è che in tutti i bar c'erano queste cose. E sono state sostituite dalle macchinette. Macchinette mangiasoldi che rovinano un sacco di gente. Eh sì, ma veramente. Perché scusa, il flipper invece non ci sono casi noti di gente che si è rovinata col flipper a 100 lire alla volta. No, 100 lire alla volta vuol dire che devi passarci proprio la giornata. Sì, invece con le macchinette e con la banconota. Ti divertivi, insomma, lì. Sì, sì, assolutamente. No, non rovinavi delle famiglie comunque. No, poi mi ricordo anche, vabbè, più anni 90 forse, proprio tornei domenicali, sì. Tornei su tornei su tornei. Poi dopo il era flipper, un mondo. Dopo il flipper è cominciato Pong. Bravo, sì, i primi videogiochi. Poi c'è stato dall'Atari Asteroids. È stato bellissimo. Oh, Metal Slug. Qua. È un nerd, è un piccolo nerd. No, è un grande nerd. Piccolo, perché no, è un piccolo. 1,96 m. No, ma non li dimostro, ecco. No, certo. Piccolo nerd, nel senso che ha delle doti nascoste. La nerd che non conoscevamo. Neanche Nadia le conosce. Neanche Nadia. Tanto, anch'io conosco le tue doti nascoste. Sottolineiamo nerd con la N. Ho scoperto di doti. Ah, grazie. Tipo nella realizzazione dei video fake news, lì hai delle doti, guarda, che vanno oltre l'immaginabile. Ci sta. Ok, allora vedo gente ferma, quindi immagino che siamo quasi pronti per. No, io invece quindi vedo gente che sta urlando al DJ, se non metti l'ultima, noi non ce ne andiamo, come sempre succede. Io direbbe però se ce ne andassimo. Com'è? Ma io direbbe che sono d'accordissimo. Ah, ok. Andiamo d'accordissimo. Quindi anche perché salutiamo tutti, anche perché io ho una discreta famiglia. L'anguarino, a parte quello, però insomma andiamo anche a salutare tutti i nostri ospiti. Hai pure il discreto l'anguarino. E qua si arriva al solito dilemma: Camogli o Rustichella? Rustichella. Camogli o Rustichella. Però ragazzi, hanno un po' perso di fascino, eh. No, allora, come pizza, amica mia. Allora, tu hai dichiarato a questi microfoni. Tra l'altro Dave ha tirato fuori il sale e il pepe che usa in casa, perché sono quelli che per condire l'insalata. E non so perché li ha portati qui, li ha dimenticati. Li ho trovati. No, dicevo. Cos'è che ho dichiarato io a questi hai microfoni? Hai dichiarato a questi microfoni che tu avresti microfoni fatto spenti, la Spartan Race. Non è che avrei fatto, io faccio. Appunto. Ragazzi, adesso fra l'altro se mi sto vai dando avanti a pizza con no, la Spartan ragazzi, Race. Mi spiego, io mi sto dando un po' una calmata con gli allenamenti perché stavo diventando troppo mascolina, no? Avevo le spalle proprio definite, i muscoli così. Allora adesso mi sto dando un po' una calmata. I pettorali anche i pettorali, ma sì, tutto sono gonfiati, rimigoriti. Mi stavo spaventando, ma cos'è queste rughe sulla pancia, cazzo, sono degli addominali. Ah. E allora adesso è meglio che io mi dia un po' una calmata. Sì, sì, e insomma, una addominali non si può dire in radio, mi raccomando. Addominali? Sì. Perché sì. No, più che altro perché ho detto prima con la C, no? sono dei stra cavoli di addominali. Sì. Ecco, no, diciamo che esprime un po' lo shock che ho avuto nel vedere che il mio fisico stava assumendo questa dimensione così. E quindi adesso direi che è il caso che mi anabolico. Che dia un po' un taglio a tutto questo, perché ripeto, cioè, tutti questi muscoli così non stanno bene. Sì, poi insomma si sa che fare sempre esercizi, poi il fisico non si abitua. Poi signori, non è che uno può fare tutto nella vita. Certo. Però mi suggeriscono di tagliare invece. Tagliamo la iola. Anche perché, ripeto, andiamo a salutare i nostri ospiti e i nostri festeggiati, a dare il stavo dicendo saluto finale, ma è brutto perché va a ricordare altre cose. No, il non lo so, trovate voi. Allora, troviamo una soluzione finale per saluto finale è un po' troppo. Faccio una ravanata. Eccessivo. Ravanare si può dire. Ravanare. Vabbè, insomma, andiamo a salutarli e augurargli la buonanotte, diciamo così. Intanto l'auguriamo a voi, grazie di averci ascoltati e seguiti, continuate a farlo. Ristorato e Convento al nostro sito tramite l'app o convento.it sito, e anche in questo caso l'app. Risentirete tutto quello che succede all'interno del nostro locale nel corso della settimana nella nostra programmazione radiofonica e musicale. Grazie a Mr. Dave e Nadia. Ciao, buonanotte a tutti, e non dite che non ci siete cascati al pesce d'aprile, perché sappiamo che ci siete cascati anche lo voi. Sappiamo, lo vi sappiamo. Vediamo, non ci siamo, ma vi vediamo. Buonanotte. Un chiaro saluto nudista a tutti. Per fortuna anche abbiamo le telecamere spente.